Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Gertrudismo, neologismo liberamente ispirato al noto personaggio manzoniano, indica la tendenza compulsiva a rispondere affermativamente a proposte, richieste e provocazioni, quasi mai valutandone con attenzione le conseguenze. Io mi chiamo Gabriella Costa, sono nata a Milano, vivo a Milano, per lavoro mi capita di spostarmi abbastanza, mi occupo di teatro, in generale di parole, e ho un marito, tre figlie e un cane. È mercoledì 12 settembre 2012, sono le 16:07, questa è Radio 24 e adesso vi fermate 5 secondi e provate a immaginare quante volte nella vostra giornata, a partire da stamattina fino ad ora, avete detto di sì. Guarda, Paolino, quando capisci le robe senza che manco te lo dico, riproviamo, fai ripartire la base. Fermatevi veramente 10 secondi e provate ad immaginare quante volte oggi avete detto di sì. Quante volte l'avete detto a vostra moglie, a vostro marito, ai vostri figli, al vostro capo, al vostro collega, a uno su Facebook che vi ha scritto qualcosa, al telefono a uno sconosciuto, a qualcuno che vi voleva vendere qualcosa e per stanchezza voi avete detto di sì? Ok, adesso contatele e dopo averle contate, ditemi e pensate qual è stata l'ultima volta in cui vi siete pentiti di aver detto quel sì. 80024 sì 0024 sì, oppure 349 238 sì 6666. Esiste anche un profilo Facebook del programma sì, che è Voi siete qui Radio 24. Proprio sapete quando dite quei sì con leggerezza o anche quei sì con una certa pesantezza, però niente, ormai li avete detti e un secondo dopo vi siete pentiti. 349 238 6666. C'è qualcuno all'SMS del programma che ha già capito il gioco di oggi, che lo ha già capito. Il gioco di oggi è da lunedì che ve lo racconto, è che c'è una piccola sorpresa che riguarda non solo oggi, ma una piccola novità che riguarderà tutta la stagione e che ha a che fare con i racconti che arrivano a questo programma e con gli ospiti che saranno ogni giorno spalmati nell'arco di tutta la stagione a questo programma. Ma torniamo al sì, perché oggi si parla di quella incapacità che alcune persone, mi metto pienamente in quella fila di persone, hanno di dire di no. Cioè le persone che non sono in grado di dire di no e dicono sempre di sì, dicono di sì a richieste, dicono di sì a proposte, e quindi c'è quella forma di dai dico di sì così me ne libero, dico sì e poi me ne pento. 80024 0024, 349 238 6666, proprio l'ultima volta che avete detto di sì e vi siete pentiti. Mara mi scrive: 2 giorni fa, quando ho firmato un contratto a progetto per una cooperativa e mi sono accontentata degli scarti che mi davano, perché non si può non lavorare. Anni di studi inutili, ho detto di sì, me ne sono pentita. Barbara: saldiamo il conto giovedì? Ok, sì. E da quel giorno di giovedì ne sono passati 52. 80024 0024. Ancora mi pento di dire di sì ogni volta che vado in pasticceria, mi scrive Stefania. Mi pento di dire di sì per il sì che ho detto al mio matrimonio. Quello del matrimonio, vabbè, sono stati più semplici, ma i sì del matrimonio li togliamo, ok? Facciamo così, chiamate l'80024 0024 e facciamo una serie di telefonate veloci, ok? L'ultima volta che vi siete pentiti di dire di sì. La sorpresa è la storia di oggi. La sindrome di Gertrude è quella che ha portato la signora in questione, meglio nota come Monaca di Monza, a rispondere di sì a uno che invece avrebbe fatto meglio a ignorare. Per passione, per noia, per ribellione, per curiosità o per sfinimento, perché sapeva resistere a tutto tranne che alle tentazioni. Ecco, io più o meno funziono così. Quando mi chiedono qualcosa, tendo sempre a rispondere di sì. Gertrudismo, neologismo liberamente ispirato al noto personaggio manzoniano, indica la tendenza compulsiva e a tratti patologica a rispondere affermativamente a proposte, richieste e provocazioni, quasi mai valutandone con attenzione le conseguenze. La risposta non comporta necessariamente sventura, talvolta solo qualche ripensamento. Le conseguenze più nocive del gertrudismo sono che a un certo punto uno si perde tra l'onnipotenza e l'inadeguatezza, cioè non hai il tempo, le energie materiali e poi sono il pentimento. Siccome io detesto pentirmi, dovrei cominciare a prevenire anziché poi a subire le conseguenze. Forse è tutta colpa di Luigi Tenco, cioè no, Non sua personale, ci mancherebbe. È colpa mia, che tanto per cambiare non ho saputo trovare il giusto equilibrio. Per capirci, mi sono concentrata troppo sul «io sì» e ho completamente dimenticato di metabolizzare il ritornello della canzone «E se ci diranno, noi risponderemo no, no, no, no». E a nulla sono valsi i velati richiami di Vasco Rossi quando sosteneva che c'è chi dice no. Per carità, non mi permetto di dubitarne, è solo che non l'ho mai sperimentato di persona. E anche se per tirarmi su ogni tanto provo a citare Oscar Wilde e la faccenda del saper resistere a tutto tranne che alle tentazioni, non c'è niente da fare. Gertrude ero, sono e temo sarò. Ma attenzione, non certo in modo totalmente acritico, passivo e subornato. Diciamo piuttosto che ci sono delle richieste, anzi, meglio, delle tipologie di richiedenti rispetto alle quali sono totalmente e spesso beatamente incapace di sottrarmi. Comincerei da quelli a cui dico di sì sempre e comunque, in modo assoluto e aprioristico, senza se e senza ma. E quindi, in ordine di apparizione, nella mia vita intendo, metterei Slow Food nella persona di Carlo Petrini, e poi Emergency. E poi ho detto di sì, tra le altre, ogni volta che ho potuto, quando si è trattato di dare visibilità e sostegno a campagne per la salute e la sicurezza delle donne, in tutti i sensi e in tutti i luoghi. E poi ho detto di sì quando un po' di persone che lavorano alla Porsche mi hanno proposto di partecipare come pilota a una corsa automobilistica. 3 giri di pista, a Monza, così, tanto per rimanere in tema. L'ho fatto, giuro, un'emozione pazzesca. Ogni volta che mi è stata fatta qualche proposta che era chiaramente una furbata, tipo, faccio un esempio paradossale ma vero di parecchi anni fa, quando mi è stato proposto di fare una edizione teatrale, cioè ovviamente teatrale, della Bisbetica Domata di Shakespeare, e con me nel ruolo di Caterina, che ancora ci sta, e Vittorio Sgarbi in quello di Petruccio. Io ho proprio detto un bel no, senza sì e senza ma. In generale, ogni volta che mi sembra che non ci sia una vera ragione forte per fare o per coinvolgermi in progetti, ma sia semplicemente appunto una furbata o nel caso di testi teatrali da mettere in scena una sorta di operazione di necrofilia, cioè dare vita a qualcosa che vita non ha più. E poi ho detto dei no secchi e chiari ogni volta che mi è stata proposta una candidatura politica, perché penso che col mio mestiere, questo modo di narrare anche le cose, si faccia diversamente politica, ma forse, oso dire, ogni tanto persino meglio. E poi ancora dico di sì agli amici che mi chiedono di presentare i loro libri, più raramente a quelli che non conosco. Dico di sì, anche se non sempre, a quelli che mi portano manoscritti, copioni, CD da ascoltare e DVD da guardare, e regolarmente mi stramaledico, perché poi finisco per perdere le cose o non trovo il tempo e non mi faccio più viva con loro e mi detesto e giuro a me stessa che è l'ultima volta, che non lo farò mai più, che ho imparato dai miei errori e regolarmente, inevitabilmente, all'occasione successiva, ci ricasco pari pari. E d'altra parte, come dice Satie, l'esperienza è una forma di paralisi. Disse di sì e fu monaca per sempre. Ecco, questo è il passaggio dei promessi sposi che riassume tutto quello che Lella ha raccontato nella sua storia. Gertrude, meglio conosciuta come la monaca di Monza, era un personaggio realmente esistito, a cavallo tra il 1500 e il 1600, che per una serie di motivi particolari e numerosi si trovò di fronte ad una scelta pressoché obbligata: prendere i voti ed entrare in convento. Di questa frase, disse sì e fu monaca per sempre, è la prima parte, quella che ci interessa. È quel dire di sì, quell'incapacità ad andare contro il volere familiare che l'aveva destinata prima ancora della sua nascita al convento. Che dire di sì è più facile che dire di no. Dire di sì è rassicurante, mette le persone a proprio agio, le fa sentire giuste, in armonia con noi e con il resto del mondo. Dire di sì è un modo per non prendersi delle responsabilità, o magari per prenderle, ma senza addossarsi tutte le colpe, perché di fronte a chi dice di sì c'è sempre qualcuno che domanda e in qualche modo sembra volerti portare dalla sua parte e farti dire sì. Credo che molti abbiano sperimentato sulla propria pelle questa sensazione, quella di trovarsi in difficoltà di fronte a una richiesta è sentirsi più leggeri rispondendo con un sì, immediato, subito dopo la domanda. Salvo poi diventare pesantissimo un secondo dopo averlo detto, perché magari quel sì poteva essere un parliamone, o un ci penso un po' su, o più semplicemente un no, o grazie no, o mi spiace, ma no. Una volta una persona di cui ho grande stima e fiducia mi ha detto che, sin da bambini, noi abbiamo paura di sentirci dire di no, perché abbiamo la sensazione di essere rifiutati, come se quel no riguardasse tutta la nostra persona, cioè quello che siamo, quello che facciamo, quello che pensiamo. Mentre i no, la maggior parte delle volte, riguardano una sola cosa specifica, una richiesta, una proposta, un semplice desiderio. Ecco perché di conseguenza facciamo fatica a dire di no. Perché non vogliamo offendere o non vogliamo umiliare. Non vogliamo far sì che la persona che ci ha chiesto qualcosa si senta svilita. E allora diciamo semplicemente sì. Non ne sono sicuro, ma anche solo provandoci adesso, in questo momento, in maniera empirica, se provo a dire prima sì e poi no, ho la sensazione che per dire sì si debbano usare meno muscoli facciali e fare meno fatica che per dire no. Per pronunciare la parola S, la lettera S, basta portare la lingua sul palato e far uscire l'aria, e lei viene quasi da sola. Per dire no, invece, bisogna stringere le labbra, far uscire la O, che è un suono cupo, quasi spaventoso. Esiste un libro per l'educazione dei bambini, è abbastanza famoso, si intitola I no che aiutano a crescere. E testimonia proprio come spesso è dicendo no, quando è giusto dirlo, ovviamente. Ecco, è dicendo no che aiutiamo qualcuno molto più che dicendo di sì. Che non voglio demonizzare i sì, così come non intendo fare un'apologia del no. E forse in fondo bisogna solo fare più attenzione a quale delle due risposte necessita di maggiore coraggio per essere detta. Che sia un no o un sì. Se dobbiamo fare più fatica per dirlo, allora è il caso di fare un lungo respiro, prendersi un po' di tempo e soppesare se ci conviene dare una risposta facile dalla vita breve o una più difficile, ma dal respiro più ampio e più sincero. E quindi fare come in un altro testo, molto diverso dai Promessi Sposi, un altro personaggio molto diverso dalla Monaca di Monza, Cyrano de Bergerac, di fronte alla richiesta di scrivere versi o duellare in cambio di denaro in favore di qualche ricco e potente, risponde una serie di fermissimi no, grazie, grazie, no, grazie. Ne abbiamo parlato solo praticamente oggi o ieri o giusto lunedì, del fatto che quest'anno, nella seconda stagione del programma Di Voi Siete Qui, c'è una piccola sorpresa. Non l'abbiamo raccontata sin dall'inizio, perché è proprio una sorpresa. Forse qualcuno l'ha capito, qualcuno forse l'ha riconosciuta dalla sua voce, che è piuttosto famosa. La sorpresa di quest'anno è che avremo ogni tanto la storia di un ospite. Avremo il Voi Siete Qui di un personaggio noto che ha voglia di condividere con noi il suo personale Io Sono Qui. Quest'anno cominciamo, e la sorpresa di quest'oggi è proprio lei, cominciamo con Lella Costa. Pronto Lella Costa, buongiorno. Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie innanzitutto per aver condiviso con tutti noi la sua storia di donna che dice sempre di sì, in sostanza, anche se detto così sembra orribile. Sì, sembra orribile, soprattutto è molto facilmente fraintendibile, anche perché appunto io alludo a una monaca di Monza, ma in realtà la mia tendenza a dire di sì non riguarda affatto le proposte indecenti o erotiche o pseudotali, riguarda una tendenza, una tentazione ad accogliere, ad ascoltare, a rendersi disponibili. Nasce sostanzialmente dal fatto che io penso di essere molto fortunata, forse troppo, e quindi poter in qualche modo restituire parte di tutto quello che ho avuto mi sembra bello e doveroso. Ma ad esempio, quanti si è detto oggi Lella Costa in mattinata, in sostanza? Direi

è stato anche divertente, è stato comunque un'esperienza. Dopo 25 anni non ne potevo veramente più, anche perché ho doppiato una che definire, c'è cioè un personaggio molto bizzarro, un'attrice che sono anche andata a un certo punto un po' di anni fa, ero a New York e sono andata sul set di Sentieri a conoscere questa specie di alter ego. Credo che qualunque esperienza professionale, soprattutto che si protrae così nel tempo, diventi poi una sorta di misura del medesimo tempo, e quindi è stato sicuramente bello farlo. Qual è la prossima cosa che fa Lella Costa nei prossimi giorni, nei prossimi mesi? Oltre che pubblicare, ahimè, anche se con un filo di imbarazzo, un piccolo saggio sull'ironia che uscirà da PM nell'autunno, farò una ripresa di tournée dell'ultimo spettacolo che è Arie, e ne preparo uno per la prossima primavera. Lella Costa è stato il primo ospite che ha voluto condividere il suo personalissimo Io sono qui con noi, qui a voi siete qui, la ringrazio moltissimo e in bocca al lupo per tutto. Io ringrazio lei, ringrazio tutti voi, è stato un onore avere questo piccolo primato. Grazie Lella Costa, arrivederci. Arrivederci. Beh, la faccia di Lella Costa immagino la conosciate quasi quanto conoscete probabilmente la sua voce, che alcuni hanno identificato immediatamente appena si è presentata in apertura di trasmissione, presentandosi come Gabriella Costa e non come Lella. Però provo a descrivervela lo stesso, è un ritratto professionale ovviamente, perché si trova sulla copertina di un libro. Lella Costa è una bella signora con i capelli chiari, castano chiari direi, tagliati corti. In questa foto ha su un maglione, una di quelle maglie morbide che mettono le donne per sentirsi comode ma essere anche un po' sexy in qualche modo. Ha gli occhi leggermente allungati e ha un bel sorriso. Sì, è l'avverbio della risposta affermativa, spesso rinforzato mediante ripetizione, interiezione e altro avverbio, capace a sua volta di rinforzare un'affermazione e corrispondente a una proposizione quando sia unito ai verbi del dire. Ha il valore di risposta affermativa o di voto favorevole. Con intonazione interrogativa sta per pronto o dica al telefono, oppure per dichiarare sbrigativamente la propria disponibilità. Etimo latino sic, così. Non dovevo dire i numeri, 1, 2, 3, 4, io non li ho detti. E questa è Alessandra, la nostra speaker che ringraziamo. A tradimento mettiamo dei pezzi del suo fuori onda. Lei è sempre così precisa che una volta ogni tanto, anche quando dice sì, c'era proprio un pezzo della definizione che era giustissima. Dire sì non con leggerezza. Niente, dopo la ricerco. Stiamo creando il dizionario di Voi siete qui. Ogni giorno una parola che rappresenta la puntata, o meglio, la storia di quel giorno. Oggi non poteva che essere sì. Poteva essere gertrudismo, però essendo un neologismo e non avendolo trovato nel dizionario che Tiziano Bonini e Margherita Hina si sono scaricati, dal quale trovano... Ma è uno di quelli famosi, il dizionario? Uno tipo... è proprio... Devoto Olio Zingarelli? Devoto Olio, Devoto Olio. Che sono due, ho scoperto solo di recente. Tu pensa. 349-238-6666 800-24 0024. L'ultima volta che avete detto di sì e ve ne siete pentiti, non è stato oggi ma qualche anno fa, quando ho detto di sì per fare da garante a un amico per comprarsi l'auto, e dopo un anno se n'è andato in Brasile lasciando 6.000 euro di rate da pagare. Luca da Verona. C'è un pezzo minore di uno dei testi maggiori di William Shakespeare, che è Amleto ovviamente, di cui si conosce appunto essere o non essere, fragilità, il tuo nome è donna, bla bla bla. C'è un pezzo invece molto bello in cui Polonio, che è un personaggio molto interessante del testo, vabbè, sembra che sto facendo la lezione di drammaturgia, però c'è un pezzo bellissimo in cui Polonio saluta il figlio che parte e tra i vari consigli che gli dà gli dice non dare mai prestiti agli amici, perché una volta perdi il prestito e l'amico. Questo vale per Luca, ma anche per me un paio di volte. Purtroppo per mia moglie ho detto mio malgrado di sì a una decina di donne. Questa ogni tanto arrivano messaggi così, li leggo più che altro perché poi mi piacciono i messaggi che arrivano dopo. Sì, questi che se ne vantano. 800 24 00 24. Aspetta, prima di sentire le persone che sono al telefono e che si sono pentite di dire di no, e c'è questo messaggio fuori contesto che è adorabile, perché è fuori contesto ed è in ritardo di tipo 2 settimane ormai. Chiedo scusa, scrive Rossana da Rimini. Mi potrebbe dire il nome del materasso che voleva salvare nello spazio nel programma di Achille Corea? Grazie mille, Rossana. Questa risale a un intervento che io ho fatto nella trasmissione di Achille Correa quando, durante il palinsesto estivo, quindi si parla di fine agosto, in cui parlavo del mio materasso. Però mi spiace Rossana, però non posso fare uno spot, ti ripeto, è il materasso degli astronauti, se cerchi su Google lo trovi. A posto, chiuso qua. 349-238-6666. Andiamo invece a sentire direttamente qualcuno. Paolo da... Ah giusto, Paolo non dice di dov'è perché vuole rimanere... anche Paolo è tra virgolette, quindi è uno pseudonimo. Pronto Paolo? Buonasera Matteo. Buonasera, diciamo Paolo per dire Paolo, giusto? Perfetto, è il mio nome dei sogni meraviglioso. Benissimo, allora Paolo, tu ti sei pentito di aver detto di sì alla proposta "ci vediamo stanotte"? Sì, diciamo che quando ci si pente spesso e volentieri c'entrano delle ragazze e in questo caso... non faccio eccezione. È accaduto quando? Stanotte vuol dire ieri notte, cioè la notte appena passata? No, è accaduto quest'estate, diciamo così. E il pentimento a cosa è dovuto, se posso, Paolo? Perché sarebbe stato meglio per la serenità di entrambi forse evitare di vederci. Ma quindi, se posso, Paolo, è perché entrambi avete altro da fare nella vita, intendo dire. Esattamente, siamo pieni di impegni. Va bene. Come va con i sensi di colpa, quindi? Me ne faccio una ragione, io penso ai miei e lei penserà ai suoi. Dove ti trovi Paolo? Sento animali da cortile nel sottofondo. Sì, diciamo, sono proprio animali, diciamo di sì. No, si può dire Paolo, perché Paolo sei nell'unico posto che se dici dove sei ti identificano. Assolutamente sì. Sei tipo in un negozio di animali. Più o meno. Paolo, ti lascio andare perché altrimenti di questo passo mi sa che ci insabbiamo. Grazie mille, buona giornata. Ciao Paolo, grazie. Andiamo a Dario da Modena, che spero sia il suo vero nome. Pronto Dario? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Molto bene, molto bene. Cosa fai a Modena? Combattiamo contro il terremoto e contro la disoccupazione. Tu quindi sei in cerca di lavoro? No, faccio il consulente. Di cosa? Speriamo. Di cosa Dario? Ma nell'azienda. Okay. Ma consulente di cosa? Cioè di strategia aziendale? Ecco. Sì, più o meno. Quindi dai consigli alle aziende su come svilupparsi, più o meno. Sì, o come sopravvivere. E invece col terremoto come va, Dario? Ma no, adesso insomma tutto ok. Adesso siamo sulla fase che bisogna ricostruire. Tu sei in casa tua, cioè non adesso, intendo dire, però vivi no, a casa no, tua? No, noi non abbiamo, Modena città non ci sono stati gravi danni particolari, però nella bassa sì. Ma l'economia della città ne ha risentito anche? Modena stessa, intendo. Ma sai, il distretto giù biomedicale è abbastanza, perché sono in ginocchio, però stanno ripartendo tutti, guarda. Il distretto è biomedicale, hai detto, Dario, scusami. Sì. Perché sì, tu sì. Ti occupi di quella cosa lì? Beh, anche. Ok. Senti, veniamo al sì invece. Hai detto di sì e poi ti sei pentito a chi e di cosa si trattava? Un amico che ho conosciuto all'università mi ha chiamato un giorno, mi fa: guarda, sono in difficoltà con la mia compagna, io con mia moglie ci siamo guardati e ho detto dai, gli diamo una mano, solo che poi sì, si è accampato a casa nostra. Quanto è rimasto? Ma più o meno, sì, nel messaggio l'ho fatto più tragica, però sì. Un paio d'anni da tre, lui aveva... a fase alterne. Ok, sì, lui aveva fatto una richiesta, però aveva tipo tre giorni, una settimana. Esatto. Senti, c'è questa cosa... in realtà è stata una cosa bella, cioè in realtà sì. È stato piacevole avercelo in casa. Sì, però averlo saputo prima ci si ragionava. Senti, c'è questa cosa che immagino tu non sappia da dove arriva, ma nella zona tua proprio, Modena sì. E limitrofi, sì. Avete questa cosa che ogni tanto dite, ma sì, dai, allora ci siamo guardati e abbiamo detto, ma dai, ospitiamo. Sì. Ma il dai, esatto. Il dai è chiaramente un intercalare, ovviamente, sì. Ma è simile al De Livornese che ho scoperto stare per Deus, una sorta di... Ma guarda, invocazione, non lo so, non hai però... idea. Però, no, però lo dite, dai, ma sì, dai. Sì, sempre, ma sì. Ma sì, è stata una bella serata, dai. Alla grande, grazie mille, Dario. In grazie, bocca al lupo. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie, ciao. Anche tu. 349-238-6666. Dai, se qualcuno mi sa spiegare perché, dai, perché si dice dai? Che poi dov'è? Emilia, in sostanza. Ma anche in Romagna. Paolino, anche a Senigallia da voi, dai. Pochettino, dai, che lo dite, dai. Ma sì, dai. Ci siamo. Ma ci siamo divertiti, dai. Che tra l'altro sembra sminuire, no? Cioè, uno in teoria è passato una bella serata. Com'è stata? Una bella serata, dai. Ma sì. Ancora, quanto manca? Abbiamo quasi finito. 349-238-6666. Dovete ricordarmi di mettere gli occhiali quando entro in studio, perché sennò non riesco a vedere i messaggi. L'ultima volta che ho detto di sì ieri pomeriggio al mio capo per andare a lavorare invece di studiare per l'esame di oggi, come ho fatto centinaia di altre volte in questi anni di università, e me ne pento. Luca, vi ricordo che se avete voglia di scaricare il programma e sentirvelo quando volete o rimandarlo all'estate, sentirlo tutto in fila, andate sul sito di Radio 24 alla pagina di Voi Siete Qui e trovate il podcast del giorno, oppure alla sezione podcast tutti i podcast della stagione. Io ringrazio oggi la prima ospite di questa stagione, che è la prima ospite, diciamo, come chiamarla? Famosa, nota, la prima ospite nota del mondo, in questo caso dello spettacolo, tant'è che è Lella Costa. Ringrazio Paolino Corleoni, ringrazio Tiziano Bonini e Margherita Ina. La sera di oggi era la storia di Lella Costa, e anche lei da oggi è un punto rosso su una mappa. Ciao, mi chiamo Fabio Stacchiotti, ho 42 anni. Io sono un balbuziente che è stato balbuziente per 20 anni, e un giorno particolare della mia vita, il 18 dicembre del 1998, è successa una cosa che ha cambiato la mia storia.